4 Mattino. Io 74 anni vedo una bella figa come la Boschi. Io le farei rifare tutte le scene dei film della Fennec. Ah, quelli di tanto tempo fa. Quando era nuda sotto la doccia, che si insaponava, mi faceva una libidine. Sì, però non faceva, perché da qui un attimo arriva il sessismo, quindi non andiamo... No, ma non è sessismo, ma è fattuale. È fattuale che certo. Poi oggi quelle docce lunghe non si possono più fare, sì, che da quando c'è la Raggi a Roma non c'è più acqua. Ma cosa c'entra? È fattuale il nuovo tormentone di Crozza quando imita... Pensate, Vittorio Feltri, e fa questa battuta sulle docce che a Roma non si possono più fare. Ma una delle notizie su cui voglio centrare il fuoco di questa rassegna stampa è l'incredibile guerra fra Calenda e la Raggi. Cioè Calenda è stato costretto a dare un ultimatum alla Raggi che non gli risponde al telefono. È una cosa che sembra finta, invece è vera, e gli ha detto: entro 48 ore mi devi rispondere al telefono, altrimenti non c'è niente da fare, si chiudono i rapporti. Allora Roma, l'ultimatum di Calenda alla Raggi, prima pagina del Messaggero: siamo al ridicolo, il ministro, vediamoci subito, o addirittura salta il tavolo per Roma Capitale, per il rilancio di Roma Capitale. E allora subito i titoli dei giornali. Flop a sinistra, Gentiloni va, oltre a questo titolo che vi ho letto, è quello del Messaggero. Tassate le cooperative che lucrano sui migranti, finalmente era ora. L'idea arriva dalla Liguria e ce lo racconta Francesco Borgonovo sulla Verità. La Stampa, questa è una notizia forte. Madrid, l'esercito in Catalogna, Puigdemont, il re ci ha deluso. A Barcellona si inseguono le voci di arresti che però non arrivano. Il Giornale: c'è un piano della sinistra per far votare gli immigrati. Peggio dello Ius Soli, l'appello shock di 176 parlamentari, basta la residenza. Nuovi sbarchi, la Tunisia ci riempie di carcerati. Allora, i due giornali sportivi, ovviamente, perché siamo alla vigilia della nazionale, la Gazzetta, VAR primo bilancio, e poi i nomi dei blindatissimi che possono essere sblindati, e la doppia Italia e Ventura invece è il titolo del Corriere della Sera sulla nazionale. Importantissimo, ci torneremo nella sezione dei soldi, banche, la BCE vuole più coperture, e il Sole 24 Ore, scopriremo che cosa vuol dire questo e perché ci interessa e ci crea un problema. Avvenire: Madrid pronta a tutto, muove anche i soldati. E poi Libero, sobrio come sempre, importiamo malaria, clamorosa conferma. Il Tempo, interessantissimo, lo faremo nella mitragliata. Milano ladrona e poi preso, è la foto identificativa di Battisti, non il cantautore ovviamente come sapete, ma il terrorista latitante da tempo in Brasile, beccato mentre se ne stava per andare in Bolivia. Il Fatto: che bel governo, esce Bersani, entra Verdini, c'è anche sarcasmo. Poi Micari e Musumeci, il derby sinistra-destra degli impresentabili. Repubblica: l'ultima frattura della sinistra, Pisapia un bene per il paese, se D'Alema si ritira, la replica: sei un illuso, non piegherai mai Renzi. Il Giorno: adios Madrid. Il Foglio: indipendenza ritoccata, e poi un'apertura molto diversa, l'incubo, questo secondo il Foglio, del governo da Vigo. E allora cominciamo alla grande con le notizie di oggi. E allora il Corriere della Sera, partendo da questo tema della divisione a sinistra, ha un editoriale che contiene una parola strana, ma gli ascoltatori del Sole sono pronti a queste prove, ed è quello di Ferruccio De Bortoli, e continua a pagina 32, parte dalla prima, e parlando di questo senso della giornata, divisione a sinistra, problemi economici eccetera, rispolvera la parola catoblepismo, segnatevela, ovvero la tendenza pari a quella dell'animale fantastico catoblepa, una specie di toro, a guardare solo in basso. Con la testa appesantita di interessi e contraddizioni, l'analisi di Barca, che inventò questo termine, ebbe così successo che il suo autore decise di occuparsi d'altro. Lasciò la politica attiva. Il termine era stato coniato negli anni 60 da Raffaele Mattioli, capo della Banca Commerciale, per descrivere, racconta De Bortoli, gli intrecci perversi dell'economia italiana, in particolare tra credito e industria. L'immagine del catoblepismo conserva una sua attualità e spiega bene la tendenza irresistibile in politica e in economia a vivere in un eterno presente, a reclinare lo sguardo sulle logiche personali o di gruppo, disinteressandosi del futuro. È un bel programma per questa giornata, no? Allora, che cosa è successo? Ieri vi raccontavamo lo strappo Aldo Cazzullo, il ritratto, due leader troppo diversi, ed è un ritratto incrociato di Pisapia contro D'Alema, ieri alleati, oggi divisi. E il MDP ha detto che per il super ticket, per gli incentivi sulle nuove assunzioni, per le pensioni, era pronto a non votare la manovra. Così ha fatto, e al Senato il primo sì senza MDP, Pisapia attacca D'Alema, il governo supera il test, ma come? Incamerando i voti dei verdiniani. E quindi il divertito pezzo di Monica Guerzoni, come sapete una firma a cui piace scavare nelle contraddizioni della politica, Denis, cioè Verdini, torna in aula e gongola: non potevano mancare i nostri voti. Quindi esce la sinistra, entra Verdini. Passa la nota del DEF, c'è l'appoggio dei verdiniani, l'ex sindaco invoca, insulta, cioè Pisapia insulta e invita al ritiro D'Alema e duella con Vendola. Pensate, Vendola, che fu grande avversario, ma questa è la politica, di D'Alema, fa un tweet in sua difesa e ne vedremo delle belle. Il figlio del partito è il borghese, l'eterna frattura delle due sinistre, questo è il ritratto di Aldo Cazzullo. Poi c'è l'intervista di Roberto Speranza, leader di MDP: in un progetto come il nostro non possono esserci veti. Allora Cazzullo a pagina 9, l'intervista di Speranza a pagina 8, come il pezzo della Guerzoni. Andiamo a Repubblica. Anche Repubblica dedica un'enorme attenzione a questo strappo a sinistra e si concentra sull'aspetto storico. L'ultima frattura, senza compagni e senza storia, il fondo di Exo Mauro. Ci vorrebbe uno spirito santo progressista, professione sconosciuta, capace di toccare le orecchie e gli occhi della sinistra italiana, liberando finalmente lo sguardo e l'ascolto su se stessa e sugli altri. L'inconcludenza politica annunciata e la tragedia tribale in corso, infatti, sono solo il risultato finale di un fenomeno più ampio e più profondo che nasce dall'incapacità di leggere il mondo nuovo. Dentro troviamo anche qui due punti di vista, quello di D'Alema: non siamo gli ascari del PD, Giuliano si illude di piegare Renzi ma sbaglia. E poi il punto di vista del sindaco, sono due retroscena, Stefano Cappellini e Goffredo De Marchis a pagina 3 di Repubblica, i due ritratti di che cosa dicono per vincere, questa è la parte di D'Alema raccontata, di Pisapia raccontata da De Marchis: per vincere serve chi unisce, se Massimo si ritira fa bene al paese. A pagina 2 la Longo intervista invece un grande vecchio, forse l'ultimo grande vecchio della storia, che viene dal PC, Emanuele Macaluso. DNA anarchico e personalismi, spaccarsi in una malattia antica. Prima di chiudere questa pagina politica vorrei aggiungere su che cosa si litiga e un importante scenario. Allora dobbiamo andare sulla Stampa, perché Fabio Martini racconta che questa spaccatura potrebbe produrre una lista, pensate, una nuova lista che unisca Pisapia, deluso a questo punto da D'Alema e da MDP, pagina 7, retroscena, unito a Calenda e alla Bonino. Sembra quelle cose tipo, non lo so, gli artisti per il Sudafrica, perché sarebbero dei nomi di sicuro richiamo. Ed ecco qui che cosa dice: ma proprio Prodi, Letta e Pisapia parteciperanno a una delle prossime iniziative pubbliche di Ero Straniero, l'associazione della Bonino, confermando e potenziando il format laico-cattolico dell'iniziativa, un format che potrebbe ripetersi diventando il nucleo, questo è il passaggio importante, di un'iniziativa politicamente ambiziosa, una lista distinta e distante sia dal PD di Renzi che da MDP di D'Alema e di Bersani, una lista guidata dalla coppia Pisapia-Bonino con Prodi e Letta come sponsor. Il retroscena di Fabio Martini, giornalista molto attendibile, devo dire. E dicevo che a pagina 6 c'è uno dei motivi su cui si litiga: il super ticket. Quanto costerebbe abolirlo? È quello che chiedono di cancellare i deputati da sinistra. E secondo le stime di un'abolizione totale generalizzata del super ticket, ci racconta Roberto Giovannini, il super ticket da 10 euro va pagato su ogni ricetta medica per esami diagnostici o specialistici e costerebbe allo Stato 600-700 milioni. Ma un dato preciso sembra non avercelo nessuno: questo ticket sul TikTok introdotto nella draconiana manovra economica del governo Monti del 2011. Ci fermiamo per il meteo. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mannaggia. Mattino. Vi ricordate quel coro degli alpini che dice sul ponte di Basseno non ci daremo la mena? Ecco, la legge elettorale, senza fare i nomi, Berlusconi e Renzi, seduti al Nazareno non ci daremo la mena, hanno pensato loro, ma questa... È fantastico questo Lino Banfi in versione legge elettorale. Yoda sul giornale, il retroscena, è partita la corsa ai seggi, le voci della guerra segreta. In questo retroscena lunghissimo si spiega perché la nuova legge elettorale conviene soprattutto a Matteo Renzi e disegna le coalizioni. Battuta folgorante, LK, Repubblica, pagina 30. Di pagina 3, di qualcosa di sinistra, e l'altro risponde: odio, va bene. Allora, il retroscena di Franco per capire cosa combina Pisapia sul Corriere a pagina 11, e poi le grandi mosse sulla Catalogna. Dicevamo, sbarca l'esercito, Madrid avverte reagiremo, la Catalogna non si ferma, lunedì pronti all'indipendenza. Ed è molto interessante però, secondo me, sul Corriere della Sera, un pezzo di Fubini che ci racconta come lo spread stia iniziando a tormentare anche la Spagna. Questa instabilità produce l'incertezza, spread in crescita, banca impicchiata, per la Catalogna c'è il rischio di uno scenario greco. Allora, la malaria, vi dicevo da Libero, il pezzo di Melania Rizzoli, deputata del centrodestra, però in questo caso in veste di giornalista, clamorosa conferma: infettati in Italia 4 braccianti africani, la malaria arriva con i barconi o gli immigranti di ritorno ai loro paesi d'origine e siccome la zanzara killer ormai vive anche tra noi, si propaga con una semplice puntura. È allarme contagio, scrive Melania Rizzoli, non prendiamoci in giro, in Italia è tornata la malaria ed è stata portata dai migranti. Voi sapete che molti epidemiologi dicono il contrario, ma prendiamo atto di questa posizione, come facciamo sempre in questa rassegna stampa. La famiglia divise della Catalogna, molto bello, sul Corriere a pagina 5, due interviste specchiate di Nicastro, e quella forse più interessante è quella della famiglia unionista. Dice: ce n'è tante ma sono difficili da trovare perché hanno paura di parlare. Amparo e Ruben... E sentite il racconto: io sono nato e cresciuto nel catalanismo, non c'è mai stato niente di male, avevamo 2 ore alla settimana di catalano a scuola, all'intervallo c'era chi parlava catalano e chi castigliano, tanto ci si capiva, gli indipendentisti saranno stati il 10% della popolazione, adesso tutto è diverso, l'immersione linguistica ha obbligato tutti a catalanizzarsi, dall'asilo di mare all'ospedale agli uffici pubblici si parla solo catalano e il governo della comunità è un gran datore di lavoro, ma non è nemmeno per questo che è esploso l'indipendentismo. È stato come quando da adolescenti capisci se ti piacciono più le bionde o le brune, quando decidi se tenere il Barça o il Real. Non è che c'è una vera ragione per cui sei tifoso, è accaduto e basta. Un bellissimo racconto attraverso una famiglia, ma allora andiamo al Money. Allora, Visco reincaricato sul Messaggero, questo è un lungo percorso che è arrivato sotto traccia. Ma poi il problema grave delle banche. Repubblica azzarda una interpretazione molto forte, ma probabilmente si avvicina, pagina 9, l'economia, e dice: banche partita persa per l'Italia. L'Italia perde un'altra partita. Lo spiega Andrea Greco. Le regole proposte dalla BCE sui crediti inesigibili, che andranno azzerati in 2 anni se non ci sono garanzie, o in 7 di fronte a coperture, rischiano di penalizzare il nostro sistema. In borsa, pioggia di vendite sui titoli di credito. Milano, Andrea Greco. L'Italia sta per perdere un'altra battaglia europea. E sempre sulle banche, ancora una volta i poteri del nord ci fanno uno sgambetto sui non performing loans, diceva un banchiere nostrano ieri. Simili reazioni dietro le quinte degli interlocutori istituzionali. E se volete capirne di più, oltre a essere l'apertura, c'è anche un fondo importante di Marco Onado sul Sole che spiega esattamente perché. Una proposta che suscita più di una perplessità per le possibili conseguenze non volute sulla stabilità finanziaria generale e sull'operatività corrente di un sistema che stava finalmente mostrando di aver mostrato di aver lasciato il peggio alle spalle. E a pagina 8 c'è la spiegazione del perché questo danneggia l'Italia. Il drastico criterio di svalutare tutto il credito, anche se garantito, entro un termine prefissato, comporta la creazione di potenziali plusvalenze nei bilanci bancari e, in altre parole, il costo viene sopportato dagli azionisti di oggi e le plusvalenze andranno a beneficio degli azionisti di domani. Un trasferimento di ricchezze tutto sommato neutrale, scrive Il Sole con Onado a pagina 7, in un sistema di banche pubbliche ma gravido di conseguenze nelle attuali condizioni di banche che rispondono al mercato. E signori, le sofferenze siamo noi, i cittadini. Proroga sullo spesometro, il solito Il Sole a pagina 3, Micali. E il governo apre sulla sanità, spiega perché questa vicenda del super ticket, per via di quell'ultimatum, potrebbe essere cambiata. Marco Rogari, pagina 2. E stiamo ovviamente parlando di banche, di soldi, di tante cose, però mi interessa una vicenda invece di cronaca, bella. E quella del down che è stato adottato da un single. Pensate, è diventato un caso perché lo avevano rifiutato 7 famiglie che avevano chiesto adozione, non prese per la strada, avevano rifiutato questo bambino e invece poi è stato adottato da un singolo. Una cosa molto bella. La rabbia della stagista, ricordate lo scandalo delle Iene di cui parliamo? Nessuno si è scusato. Repubblica, pagina 17, né Caruso nel suo gruppo, il sottosegretario, però ne parliamo dopo nella mitragliata. E invece sul Corriere un pezzo bellissimo anche di scrittura sullo shock di Theresa May: ansia, tosse e caramella, l'ora più difficile per la leader britannica. Pensate, vi leggo solo l'attacco. E all'improvviso, mentre parlava, un comico, Simon Brodkin, che era riuscito chissà come ad accreditarsi al congresso, si è avvicinato al podio e ha allungato alla premier una lettera di licenziamento. Il disturbatore è stato portato via, scrive Ippolito sul Corriere, e dalla sicurezza è arrestato la polizia. Theresa May a quel punto tenta di ricomporsi, di riprendere il filo del discorso, ma è come se qualcosa si fosse incrinato nella sua corazza. Comincia a perdere voce, tossisce, si aggrappa nervosamente al bicchiere d'acqua che sta davanti al seggio. La tortura va avanti per lunghi minuti. La premier è costretta a interrompere più volte. In platea si teme che possa non farcela a finire il discorso. Il cancelliere e lo scacchiere Philip Hammond si alza alla prima fila e le porge una caramella per la gola. Niente, non basta. Allora Amber Rudd, la ministra dell'interno, intima gli altri membri del governo di alzarsi in piedi e applaudire in modo da dare tempo a Theresa di riprendere fiato. Niente, la leader del governo riesce ad andare avanti faticosamente, ma verso la fine del discorso la beffa va a sommarsi al danno. Le lettere compongono lo slogan del congresso, si staccano dalla scenografia alle sue spalle e cascano per terra. Signori, questa è sfiga! Strade. Cimici, calpestate senza dignità! Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Mattino. Hey honey, listen, I know you are with all these important Pennsylvania women. I had to crash this party. Ragazzi, ma quando gli auguri te li fa Obama è un'altra cosa, no? Abbiamo festeggiato la radio, lui ha festeggiato 25 anni di matrimonio, siamo lì. Allora, è giunto il tempo di cominciare la mitragliata del giorno. Mario Caruso, il deputato finito sotto accusa per le Iene, non pagava la sua assistente, le faceva profette sessuali e pagava un altro, il figlio di un sottosegretario del suo partito. Sono bellissime le scuse, perché sono in politichese pure. Mi scuso umilmente per le infelici espressioni incontrollate di sfogo umano. A Mario, ma che vuol dire? Milano ladrona, il tempo è sicuramente, come dire, il fallo di reazione, però è interessante capire perché. Il giornale di Gianmarco Chiocci titola contro il referendum, toccando un aspetto economico. Lombardia e Veneto buttano 64 milioni per il voto del 22 ottobre, soltanto i tablet per la consultazione, parentesi, inutile, sono costati al Pirellone 916 euro ciascuno. Ma spero che poi non li butteranno, no? Mandragora. Oh, non è il nome di una commedia, non è il nome di qualcuno esotico, cattivo. No, no, è una erba. Come sapete, una erba che sta avvelenandoci. Sì, perché si è trovata, dai miti all'allarme, cioè la mandragora negli spinaci. Via dagli scaffali, Milano, 4 intossicati. Si muove il ministero, l'azienda, accertamenti ancora in corso. Pagina 25, Simona Ravizza, Il Corriere della Sera. E allora, stiamo sempre sulle notizie strane, insetti, ma non strane, è il futuro forse, sulla stampa. Erika Selle ci racconta degli insetti commestibili, gli insetti che mangeremo. Pensate, pagina 26. Cavallette a colazione con l'Università del Gusto. Dal 2018, ci racconta la Selle, si potranno mangiare insetti anche in Italia. Una ricerca di Pollonzo sulla disponibilità ad assaggiarli. Cioè, si potranno mangiare, ma quanti vorranno mangiarli a colazione poi? Boh! Bagnino di Chioggia, ve lo ricordate? Quello che era stato finito sotto processo per la tremenda apologia di fascismo, per i discorsi deliranti ovviamente che faceva. Bene, incredibilmente è stato assolto. Sì, perché si era detto che era incappato nella legge Mancino, e invece è stato assolto. Vanvera, ovviamente, chiacchiera a Vanvera, ma senza nessuna pericolosità sociale e senza nessuna fattispecie di reato. Il Giorno, pagina 15. Qui c'è un'infilata di cose a tema. Il quadro di Hitler. Perché sapete che c'è un quadro di Hitler portato in Italia, indovinate da chi? Ma da Sgarbi. Oh, sono tutte vere queste notizie, perché qualcuno dice, ma che te le inventi? No. E allora, questo quadro è arrivato un pazzo, lo sto leggendo da Libero a pagina 10, e voleva sfregiarlo. Dov'è il quadro di quel pezzo di merda? Museo della Follia, da Goya a Bacon, la mostra organizzata da Vittorio Sgarbi. Per fortuna il pazzo è stato firmato, però vi devo dire che c'è la fotina di questo olio dipinto da Adolf Hitler, non è affatto male, cioè aveva una bella mano, ma perché non ha continuato a fare il pittore? Lo scontro micidiale che c'è in atto fra Fiano, il deputato del PD, e il sindaco Gori. Sono entrambi ovviamente dello stesso partito, ma stanno litigando, non ci crederete, sulla cittadinanza onoraria concessa dalla città di Bergamo a Mussolini nel 1924. Adriano Scianca a pagina 5 della Verità, risse a sinistra, Mussolini riesce a spaccare il PD. La cittadinanza onoraria di Bergamo al Duce fa litigare i due big, Fiano sposa l'intransigenza dell'Ampi, bisogna assolutamente ritirare il riconoscimento a un assassino. Il sindaco Gori, candidato in Lombardia in vista delle regionali, glissa, la rivincita a posteriori è un errore. E c'è una frase molto intelligente di Gori che dice: io non è che penso che sia giusto dargli la cittadinanza, ma spiega, cancellare un fatto politico ormai consolidato e storicizzato sarebbe un errore, una sorta di rivincita a posteriori che però non cambierebbe nulla. La cittadinanza, lasciamola come monito, proporne la cancellazione è uno sbaglio che denuncia una mancanza della necessaria distanza dai fatti della storia. Repubblica, pagina 23, com'è complessa la nostra storia, il docufilm su Manzoni, che voi direte che cos'è, era una cosa, uno strumento che serviva didattico per le scuole, beh, è pieno di errori storici, di contesto, di ricostruzione, e l'appello alla Fedeli, ora ritiratelo, gli autori, critiche provinciali, però Corrado Zunino ci racconta che ci sono citazioni sbagliate, si confondono i familiari con i torrenti, viene ricostruito un incontro fra il re e Manzoni, addirittura in un luogo sbagliato, perché è ambientato a Piazza della Scala, ma Piazza della Scala non esisteva. Sono cose veniali secondo chi lo ha fatto, ma secondo diversi storici, Zunino, Repubblica, è un errore molto grave diffonderlo ai ragazzi con informazioni che depistano. Il Manifesto, pensate, su Avvenire c'è un'intervista alla direttrice del Manifesto, in questo farà prudere le mani a qualcuno dirigente della destra, che dice: pubblichiamo il Papa perché è l'unico rimasto degno di nota. La direttrice del Manifesto, intervistata da Angelo Picariello sul Avvenire a pagina 10, portiamo ai nostri lettori la semplicità delle sue parole, ed è un cortocircuito fantastico in cui la sinistra sceglie l'ultimo grande leader e Avvenire la intervista. Sentiamo come nostri questi messaggi del Papa e vogliamo portare ai nostri lettori la radicalità e la semplicità delle sue parole. L'idea nasce da un'iniziativa della casa editrice Ponte alle Grazie di pubblicare 3 contributi del Papa, pubblici anche se inediti, per la quale era impegnato un nostro collaboratore Alessandro Sant'Agata. Abbiamo chiesto quindi alla casa editrice di poterlo diffondere in edicola con il nostro giornale in 20.000 copie. Ragazzi, ma l'avreste mai immaginato, il Papa diffuso dal Manifesto, che si chiama così in omaggio a Carlo Marx? Sono tempi strani. Ricordatevi, centralino 349-238-6666, i vostri messaggi 800-2400-24, perché fra poco inizia, subito dopo il GR, inizia il coro dei cani e dei gatti. Dai, ulula, Oscar. Ma non voglio ulula.